sa, prova il microfono. Non c'è nessuno sul 10? Ci sono io. Poi, buonasera, mi sono entrato a fare la spesa. Mi stavano staccando le braccia dal peso. Va bene, io sono un delicatuccio, poi non stavo sentendo un suono strano sull'altoparlante. Forse gli spinotti di alimentazione fanno un po' di scariche. Vediamo. Non lo so. Vabbè, dopo lo controllo, futtidini. Tutto bene, qua il segnale è il normale, sì, sono con 4 watt. Questo è il 3900 omologato, K. No, stai andando bene, non c'è problema. Sai cos'è, con la tecnologia di oggi, con questa storia dell'obsolescenza programmata, certe volte mi chiedo se si salvino i baracchini, perché i baracchini vecchi ti duravano 40 anni, tipo Tokai, tipo quelli di allora. Questi, sai, qualche piccolo malfunzionamento, tipo lo Smither che ne comincia a segnare male, poi quella saldatura che è partita, che ho dovuto fare, ho dovuto impazzire per saldare di nuovo. Insomma, dai, va bene. No, vedevo su YouTube un signore, no, una macchina del caffè di, come ce l'ho io, che marca era? Dimmi il nome di marca, non mi viene il nome adesso, Napoli, De Longhi. Pagata 90 euro col macina caffè incorporato, no, prendete i chicchi di caffè. Gli si rompe un dentino dell'ingranaggio di plastica, no, del macina caffè, perché adesso gli ingranaggi li fanno di plastica in modo da rompersi. Va da De Longhi, insomma chiede alla De Longhi, quella parte non è coperta la garanzia, perché sanno già che si rompe, però anziché darti un ingranaggio da 3 euro come fa la Saeco, che è uguale, quasi uguale, ti vendono tutto il pezzo, tutto il motore, ingranaggi, puleggia delle macchine, insomma ha dovuto sborsare per la riparazione 90 euro, quanto l'ha pagata, il difetto gli era fatto dopo 3 mesi, ci sono dei farabutti, poi si lamentano le aziende italiane che sono in crisi, che vanno male, che non vendono, certo se vendete cagate è chiaro che poi la gente non le compra più. Ma quello è fatto apposta. Se tu immaginati, ne parlavo con Luca l'altro giorno, se tu immaginati che io ho 3 televisioni nuove, ok? No? Con una card universale che mi aveva mandato premium per inserire e disinserire nel televisore quando è partita. Non me ne ero mai accorto. L'altra volta che c'era un programma che interessava a loro, io mi sono preso la carta e mi sono messo qua in stanza mia, l'ho inserita e mi dice, carta non leggibile, come non leggibile? Tanto se è leggibile nel salone, è leggibile anche qua. Uno è un Samsung, uno è un Panasonic. Telefono, dice, no, ma no, ogni marca, tu immaginati, ogni marca di televisore c'ha la card diversa con il chip diverso. Com'è? Mi ha detto che era universale, capito? Quindi tu immaginati, quella card con la tessera, col chip, la Mastercard, costa 85 euro, il meno che la paghi è 75. Ma ti pare io che devo prendere 75 per un televisore, 75 per quello di camera da letto, 75 per l'altra camera da letto, perché sono tutte e quattro diversa marca, tutte e quattro. Addirittura i due Panasonic, cioè tra il Samsung e l'LG, non legge neanche quella, nulla, perché c'è un LG, un Samsung, un Panasonic, no, due LG, un Samsung e un Panasonic, tu mangi. C'è una truffa totale. Perché? Per vendere queste Mastercard. O Wafercard, non mi ricordo il nome esatto. Sì, comunque è ridicolo che l'azienda, sapendo che si rompe un ingranaggino, no? Dentato, mettilo a catalogo come ricambio, no? La De Longhi ce l'ha quasi uguale, non so se siano uguali, lo paghi 3-4 euro proprio buce tutto me. Niente, devi cambiare tutto il motore, che comprende il motorino, quella cinghietta gommata che fa girare gli ingranaggi, tutto. Poi detto tra noi di DeLonghi non c'è più niente, saranno fatte in Cina e marcate DeLonghi, tutta roba, e quello lo fanno perché il mercato deve girare, cioè se a te non ti si rompe l'elettrodomestico, come fa la ditta a venderne un altro e quindi a far girare l'economia? Quelli che ce l'avevano con la sinistra, no, sai, su quel forum, no, il sinistro di qua, le zecche rosse, proprio per questo argomento della obsolescenza programmata, cioè la roba fatta per rompere, certo, questo è il capitalismo, l'avete voluto, adesso tenetevelo, roba che si rompe dopo pochi anni o pochi mesi, capito? Proprio per far girare, il termine, fare girare l'economia, però chi ci rimette è sempre l'utente finale, il consumatore, non la ditta, se ne fuggi, capito? Non coperto la garanzia, guarda che lì siamo a livello proprio di meschinità, cioè sanno che si rompe, caso strano non è coperto la garanzia, farabutti, guarda. Sì, ma quello è tutto fatto apposta, Marco, è tutto fatto apposta. È tutto fatto apposta, non c'è niente da fare, il problema è quello, non è che stanno lì a girarsi le palle, è tutto calcolato, tanto c'è quando si rompe, così compra il pezzo nuovo, capito? E così c'è niente da fare, e vabbè. Ma quello della scheda, la carne della TV mi ha dato fastidio, perché io convintissimo che potevo portarla dove volevo, invece se, infatti quando me l'avevano mandata avevano avuto la maschera della TV, capite? No, vabbè, sarà una cosa pro forma, invece no, se tu la metti su un'altra TV non funziona. Stavo comprando quello di Luca. Luca ne ha uno in vendita, 100 euro, bellissimo, un Samsung A32, e anche lo stesso, da mettere da un'altra parte, e però non va bene, non va bene, tocca comprare un'altra scheda, e io non ce ne butto altre 85 euro per vedere delle partite, continuo a guardarmela dove me le guardo, loro se c'è qualche programma di sabato sera che c'è, io guardo sempre quella della Juve, la partita, si spostano nelle altre stanze, non è un problema, però sono soldi buttati, capito? Giusto per business, comprare. Sì, ma infatti le partite una volta, quando non c'era il suo digitale, era tutto per tutti, cioè tutti potevano vederlo, poi hanno cominciato a fare a fasce di a caste, capito? La cassa premium ultra si guarda anche per i film dopo un mese dal cinema, seppure. Poi in meno la cassa media se li guarda dopo, che ne so, 3 mesi. Così anche con lo calcio. La casta ancora meno ambiente, se lo guarda dopo 6 mesi sempre a pagamento, poi te lo vedi in TV tipo dopo un anno, per i poveri, per tutti. Col calcio, ma poi hai visto il calcio, no? Mediaset Extra da una parte, Sky da un'altra, non lo so com'è, praticamente devi avere 3-4 abbonamenti per vedere tutto il calcio, che una volta era gratuito, tutto per i soldi, è uno schifo, anche il calcio mi è all'interno, è tutto a marcio, è tutto per soldi, sportività non credo che ce ne sia più. No, ma io quando ero abbonato premium avevo tutto, adesso ho l'abbonamento Sky, ho fatto Sky e DAZN me l'hanno attivato prima di Natale, perché mi hanno rotto le scatole, cioè mi hanno fatto un'offerta anziché 9,90€, 5,90€, e quindi ci ho inserito anche DAZN, quindi adesso il calcio lo vedo tutto completo, senza fare a tutte le partite che voglio vedere, tutto quello che c'è, anche tutto, Champion, Serie A, Europa League, tutto, pallacanestro, pallavolo, MotoGP, la Formula 1, tutto, poi compreso sempre tutto con Sky, compreso Sky, ho tutta la parte dei film, quelli che faremo prima come gli assetti premio, tutti i film, anche in quelli in prima TV, praticamente quelli che danno al cinema, ho fatto Infinity e Play, tutto compreso, e pago 59 euro al mese, però c'ho tutto, adesso c'ho tutto, prima ne pagavo 37 e praticamente volevo tre partite in meno del campionato di Serie A e poi qualcosa c'era, qualcosa insomma in meno, adesso c'è tutto, ne ho fatto prima in attacco perché mi sono rotto le scarpe, ecco perché io prendo la mia scheda, mi sposto e vedo qualsiasi cosa, e invece non si può fare. Adesso per vedere negli altri TV che ho, che sono in grossa marca da quello dove ho comprato la scheda, dove mi hanno mandato la scheda, capito? In omaggio tra l'altro, devo spendere altri 85 euro, ma se la biglia il culo. E a quel punto ti conveniva ricorrere a quel famoso sistema di videotrasmissione. Ti volevo chiedere, ma le tue TV quanti anni hanno? Perché nel 2022 forse, o 2020, probabilmente 2022, faranno questo cambiamento globale del DVB-T2, e quindi se le televisioni non sono già predisposti per questo cambio di decoder, mi pare, o codec, voglio dire, scusa, del codec, io non te lo so spiegare bene, magari se ci fosse Gianfranco te lo saprebbe spiegare meglio. Se il TV non è adatto, bisogna comprare pure il decoder esterno per ogni TV. E anche lì è tutto per fottere i soldi alla gente, capito? Ma dico, con l'analogico, siamo stati bene quasi 50 anni. Quando ha fatto il digitale, poi cambieranno il codec, cambieranno le frequenze, quindi bisogna aggiornare col decoder nuovo. Che se ti va male pure a poca sensibilità è una schifezza, perché certi decoder sono sordi, come possono essere le radio, il decoder non del ricevitore, certi sono sordi che la balla, non c'è niente da fare. Se bestemmio, guarda, tutto sempre a danno del consumatore che deve solo pagare. No, io TV, ho comprato i nuovi, questi due nuovi, uno da 49 e uno da 52, sono tutti e due smart TV di ultima generazione e ne ha poco di costo. C'è il computer incorporato anche, tutto come il computer, uguale, preciso identico. Siccome c'è la linea wifi, quindi dietro la TV ci sono i pennini, addirittura ci sono i pennini con l'antennino dietro che lampeggiano sempre. Io clicco col telecomando, cioè due telecomandi, clicco e vado a vedere tutto, infatti Infinity e guardo tutto lì, anche YouTube, su cui vado a guardare tutto sul televisore, sono sull'ultima generazione, sapevo già, una volta prendi 70 euro per poi trovarmi con un televisore che non funziona. No, ho comprati due ne avevo preso. Due. Uno nel salone, uno nella camera da letto. E l'altro, il terzo, che è un po' più vecchiotto, però di 3-4 anni, è qua in sala radio, e l'altro piccolo LG è in camera di mia figlia. No, sono tutti già predisposti, non hanno bisogno del colore esterno, hanno quattro ingressi di prese scarte, tre, l'altro invece ne ha tre di 10 prese scarte, capito? Vabbè, addirittura quello c'è il salone, c'è il DVD incorporato, metti sul lato, c'è il coso, metti il CD, quello è un bel televisore. L'ho preso in offerta da True, stava 980 euro, ho pagato 730, 720, una cosa del genere. Perché molti venditori, non molti. Ehi, che c'è? Aspetta che mi sta chiamando mamma. Cazzo, sta sempre ragliando la camera. Non lo sa che non sento io da camera a camera. Vabbè, un attimino, torno su. Ehi. eccomi, ho spento il minestrone come da indicazioni. C'è il vizio a mamma di mettere la fiamma alta sempre, cioè fallo fare piano, che fretta c'è sempre, una fiamma manetta. E poi, come oggi, ha bruciato il caffè, ha bruciato la caffettiera proprio. Fa il coso e brucia quello, fa la frittura, brucia la frittura. Piano e bene le cose si fanno. A proposito di televisione, noi avevamo un vecchio Seleco dell'86 funzionante a tubo catodico, che però aveva un lieve difetto dell'audio con i segnali esterni tramite scarpe, tipo decoder, videoregistratore, e allora l'abbiamo portato lì in via, a fianco alla questura, lì, come si chiama? Dietro i Baracelli, c'è quella discarica con quei cassoni enormi, no? E poi abbiamo buttato un Daewoo che era in cucina, mi pare 25 pollici, tubo catodico, peraltro non si accendeva più perché sta in cucina con i vapori del cucinazzo, della frittura, sarà stato caramellato all'interno, ma proprio ce l'abbiamo buttati. Buon viaggio. Quando si potrà e quando cambieranno già il sistema televisivo, no? Questo decoder nuovo e frequenze che poi non sono nuove, le frequenze sono quasi le stesse, solo che mancano i 700 MHz che sono stati rubati per integrare queste cose del 5G, non ho capito a cosa li servano i 700 MHz se le frequenze dei ponti sono molto più in alto, sono pari giga, no? Dovrei chiedere a qualche esperto in telefonia. A me va conciliato come una scegliante, la radiotecnica, come funzionava, per quello che ho visto quelli lì, ho preso questo, hai capito? E ti ho detto che è tutto mania mania, solo per creare business e giro di denaro, altro non c'è. Mimi, segnale del ponte, così è purtroppo, ma comunque aspettiamo, vediamo quando sarà, vediamo cosa fare, se da cambiare, se cambia di nuovo la futa serie, no, la TV io la guardo molto, capito, molto sport, infatti mi ho messo qua in stanza, guardarmi lo sport per i fatti miei, e a volte così che sono qua come poco fa che stavo ascoltando il PMR, ho salutato, ho fatto le chiacchiere, poi ho acceso questa, io ho sentito a te, però a volte sono qua, a volte sono nel salone, sono una mattina in campagna di nuovo, oggi sono andato, domani mattina siamo in campagna con il mio vicino e via, facciamo qualche cosetta, sembra che il tempo sia, rimanga così, però cazzo c'è un freddo, minchia, l'altra mattina siamo andati alle 8 il giorno di del 31 a portare la roba, ma 8 e mezza, no? Prima delle 9 si mi ha freddo qui, ma freddo però. E poi chi esce ancora prima tipo 5-6 mattina deve essere terribile, non da me, noi ancora siamo, ma tu sei molto in alto lì. Anche Antonello me l'ha detto che vedeva la brina sulle macchine, sul vetro delle macchine c'era la brina, il ghiaccetto leggero, no? Poi se scende ancora la temperatura diventa proprio ghiaccio. Cosa ti volevo dire? No, questo dei 700 MHz tolti alle frequenze TV, forse sono nodi di interscambio, no? Hai presente come i 434 MHz, no? Che sono fuori dalla banda vettoriale, cioè sono nel mezzo ma non sono fruibili dall'animale. Sì, ci sono tutti i nodi di interscambio, si dice, di vigili del fuoco e altri servizi. No, quando magari le frequenze sono altre di utilizzo. E deve essere qualcosa del genere anche per i ripetitori TV, roba del genere. Sì, ne avevamo già parlato una volta, no? E poi Gianfranco era proprio quel sistema lì, però penso che si possa vedere, insomma. Certo di avere la TV che sia abilitata, se no è un casino, cioè, devi mettere le cover esterne di nuovo come prima, capite che quello prende tutte le frequenze, ma io ce ne ho ancora, e ne uno nuovo tra la scatola della Farinoid, ne ho un altro piccolino dell'LG, avevo tutti conservati, perciò già la soluzione già si trova, ma ti ripeto, le TV che io sono di ultima generazione, quello che ho nel salone è una smart TV eccezionale, ho pagato, però è ottimo, io tutto lì faccio, tutto lì, no, capito, non sto piacendo, faccio tutto lì, anche mia figlia, tutto, cioè era tutto incorporato, l'altro giorno abbiamo messo un CD, si vedeva anche molto bene, tutto un HD, perfetto, prima qui a Tubocchetto dico, cazzo mi aveva una mamma, abbiamo dovuto imbragare per scendere le scale, cazzo mio, poi già faccio tocchire, mamma mia, era un 3, più di 32 pollici, era enorme, un grunding era, enorme a colori, lo stesso, e se l'aveva preso uno vicino a casa di mamma per mettere in campagna, lo stesso con le cose esterne, tutto, mi aveva dato tutto, ma quelli erano eccezionali, cazzo qui detto Boccattolico, grunding, Mivar, quelli di Telefunke, quelli hanno durato una vita. Stesso discorso della lavatrice Zoppas P41, P di Papa, quant'era? 28 anni, e mio zio ha detto che abbiamo fatto male a buttarla perché cambiando la crociera o quello che era che si era rotto sarebbe durata probabilmente altri 28 anni, solo che sai, caricava poca acqua, troppo poca acqua, era una cosa che ho notato, caricava pochissima acqua e non credo che sia una questione di risparmio, perché anche questa c'è risparmio, come si dice, risparmio dell'acqua, andava con poca acqua, però l'altra mi sembrava proprio un difetto, o l'hanno tarata male in fabbrica. Vabbè, poi sai, solo 5 kg, questa è una 7, ci sta qualcosina in più, poi vabbè, mamma la sta trattando male, no, non male, no, la nuova, peggio, proprio, proprio è stata una cosa, mamma, tutto quello che tocca distrugge, l'altro giorno mia zia le ha aggiustato gli occhiali, dopo pochi giorni spaccata la lente, mi ha distrutto 3 macchine fotografiche digitali, certo di poco conto, mi Kodak, cellulare ne consuma uno ogni 4 mesi, li distrugge, ho leccato nell'acqua, niente, tutto ciò che è elettronico, infatti non bisogna darle niente in mano, capito? Cos'è il tabulato? Marco, c'è una certa età, qualcosa sempre si distrugge, già le 7 e 4, quindi mi è mai a botte già, è così, io non lo taglio abbasso. A volte si arriva con l'età, anzi, già è abbastanza in forma, dai. Poi se fa qualche danno, stai attento, te l'ho detto, controlla, fai, e mamma già è sicuramente più attenta, la tua è un po' più giù, così è. Stavo ascoltando un attimo, come sono pimpanti, no? Quando... già capito, hanno il canale esclusivo, sono molto pimpanti. Quando entra qualcuno non dal gruppo, fuggi generale, non abbiamo già. Vabbè, chiuso il discorso. No, ti volevo dire, la TV Smart, tu quanto ne usi della TV Smart? Tipo ti guardi YouTube o qualcosa della Rai? O della TV Smart, cosa usi tu? Io uso Rai Play, poi Play TV, Infinity, YouTube. Cosa c'è? Come c'è DAZN che me l'hanno chiuso da poco, e quasi tutto uso. Che sistema operativo ha? Android probabilmente, io credo che siano la maggior parte Android, poi non mi ricordo bene quanti sistemi operativi ci siano per quel tipo di... Guarda, non ho letto neanche bene il manuale, ma penso sia Android, sì. Sì, perché c'ha le stesse icone, quando tu vai su impostazioni, ti apre la pagina di internet, cioè vai direttamente su internet in impostazioni, c'è il tema, lo tema di internet, PGD, che ha la stessa icona del computer, preciso identico. Se c'è il simboletto dello smartphone, sai, quel robottino, no, Android, sì, Android. Non credo che ci siano molte alternative. Allora, per esempio, io non ho la smart TV in camera, neanche mamma, ma non ne guarda mamma. Però piuttosto che cambiare televisore, certo non è la stessa identica, aspetta che abbasso, non è la stessa identica cosa, no? Però ho comprato questo mini aggeggio che si chiama Chromecast, Google Chromecast, è un disco di 7 cm di diametro, no? Praticamente è un... Come lo puoi chiamare? Serve a rendere la TV Smart, c'ha l'alimentatore suo tipo cellulare e c'ha un connettore HDMI, lo colleghi lì e tramite il wifi di casa praticamente lo comandi con lo smartphone, però prende il segnale internet dalla naviga con il wifi e mi posso guardare YouTube, tutto ciò che c'è in rete di video che prima non potevo vedere. Ecco, per esempio Ivan lo voleva comprare e mettere in casa, però lui è fregato perché non ha il wifi in casa. Ci sarebbe un intrallazzo da fare, bisogna usare uno smartphone che faccia da hotspot, cioè condividi la connessione con questo Chromecast, però poi serve un altro smartphone per comandare i video da far vedere la Chromecast. E in più ti, giustamente per i video ti mangia i dati dall'abbonamento dello smartphone, hai capito? Sì, mi stavo guardando, allora ho comprato un Lab Power, adesso per carità, ma quanto è pesante, bello, cioè due con due attacchi USB, uno smart e l'altro uno A, Lab Power si chiama. Praticamente è quello che serve anche per caricare il telefono mentre ce l'hai in giro. Il power bank? Dovrebbe essere quello, ti faccio la foto e te lo mando. Allora, quasi un bagaglio, che asciuga. Qui è un po' più grande del mio telefonino. No, forse sono uguali, ma è più grosso. Davvero una batteria allucinante. Allora, stamattina le sta caricando. Due tacche solo ha caricato, questo non l'avevo ancora usato, non l'avevo. C'è l'attacco smart 1A, questo 1A non ho letto manco il manualetto a vedere cosa serve, c'è due invece, due uscite USB. Ho sentito un bip? Sì, buonasera. Vabbè, buon porco. Allora, buonasera a tutti. Sì, va, di solito c'ha una o due uscite e poi dovrebbe avere un ingresso per caricarlo il power bank, Claudio, perché anche quello va caricato, è una batteria praticamente. Ne ho uno non grande, certo, da 4000, poi bisogna vedere dentro che batteria c'è, loro dicono 4000, magari è da 2000. Mai fidarsi di quello che promettono. furto è l'anima del commercio, ricordati. Io non lo vedo, tanto. Non lo vedo, sì, centrale per caricarlo, non lo vedo da quanti. Dici, da 5.000 questo. Sto correggendo un bel, dice, non 5 questo. No, non capisco cos'è, uno c'è scritto smart, l'uscita USB, l'altro c'è scritto 1A, non capisco cosa voglia dire, bisogna che legga il manuale. Vabbè, Antonio, ripreso di sì. Sì, ripreso. Sono a mal di gola, tosse, ieri, mi sono rovinato la facula. Poi dopo quello c'è un dente che mi sta dando fastidio alla guancia e ho dovuto pigliare l'antinfiammatorio. Però se arrivano di caparone mi sono divertito almeno, ma mi sono occupato a pizzi, però almeno sano, mi do ogni mattina. Oggi ho mangiato come un porco, un maialetto. Magari stai mettendo il lente del giudizio, mi sarebbe anche ora. No, è tagliato, capito? Sì, mi si è tagliato, quindi c'è la punta che in pratica tocca la guancia e capito, me la stava la schianto. Ho avuto più o meno antinfiammatorio stamattina, di quelli forti. Poi da Giovanna mi sono fatto poco comprare per sicurezza l'antibiotico, mi sa che magari mesca qualche roba di pus, speriamo di no, ma adesso comunque in questo momento non mi fa male. Però ieri notte mi ha dato Simona, dice prenditi appena di cosa, mi ha detto di uscire un po' per la tosse, se quello uscivo poi c'era alcol, Giovanni ragazzo mi rimane in coso, stavo per buttare, l'ho trattenuto in bocca, poi piano piano l'ho fatto scendere, sembra che fosse bevendo acqua vitta, ragazzi, e gli ho detto cazzo, me lo schifo questa cosa. Ci sarebbe un trucchetto per i denti. Si dice, non so, l'ho sentito nei film americani, che quando i bambini mettono i denti da latte, quindi gli fa male la gengiva, col dito gli mettono una goccia di tipo whisky, rum, sulla gengiva, in modo che gliela intorpidisce e non gli fa più male tanto. Guarda, io una volta avevo mal di denti. Ho fatto la stessa cosa, ho bagnato col cotton fioc di cosa bevo, non mi ricordo se era brandy, un rum, vabbè, una cosa alcolica. Ho bagnato la gengiva bene intorno e per magari un'oretta, non di più, me l'ha un po' intorpidita l'alcol e non mi faceva tanto male. Ma sono trucchetti. Se no, una volta si usava, quando a casa avevo mal di denti, la dentosedina. Avevo un fiago di ospedale, mamma mia! Ed era un anestetico blando, un anestetico locale da mettere col cotton fioc. Te lo applicavi sulla gengiva, no? Intorno al dente e un pochino ti calmava, ma poi con l'alcol più o meno siamo lì. Basta che non sia troppo zuccherata, come dire, il liquore che usi, cioè deve essere roba secca, no? Chiaro, se metti limoncino, mirto, già il dolce ti fa male di suo. Vai Claudio. Beh, normale che sia così. Antonio, stai attento, come vedi, non c'è a scherzare. Io non ho questo problema, ho stato abbastanza anni, ce li ho tutti, ne ho uno solo, devitalizzato e basta. Il resto sono tutti miei. Forse non ne ho mai approfittato, li ho curati sempre bene, che ogni 6 mesi faccio la pulizia, controlli. Adesso mi ce l'ho a febbraio. A febbraio ce l'ho. Controllo dei denti. Va bene. Raga, sono le 7.25, io mi allontano. Vado a sistemare il cane, se ci siete, ci accoppiamo dopo. Ok? Se no, come dicono da altre parti, dovete voi. Che intendi Antonio? Ci sentiamo dopo, dai. E io, a dopo, là, ci sentiamo a fare la pupugna e vorrei dove fuori. Ho provato anch'io ieri, intanto mi ha pisciato lo stesso stanotte. che ci ha volato sarà tutta la notte tra la camera da letto e la camera dove sono io, la camera da letto e la camera dove sono io. E quindi tutto, va pisciato tutto in cucina, no? Anche se l'ho provato ieri sera, non c'era niente da fare, di notte tutta la notte in giro, da una parte all'altra. Quindi questa sera manco si ammazza lo dolce, lo porto. Già me lo stavo chiedendo poco fa, io dico no, ho già messo, giusto, oggi non esco. Mi, Antonello ha il pisello devitalizzato. Oh, vabbè, se devitalizzato bene già va bene. No, Antonello, il mio, guarda, io ho 6 anni, quasi 7, non ha mai fatto niente dentro. Esce 2 volte al giorno, poverino. Mai. Adesso l'ho tolto, è uscito a mezzogiorno. Stamattina vabbè alle 9, poi l'ho portato a mezzogiorno, non sapevo già fare. Adesso l'ho tolto, faccio fare un girettino qua sotto e poi me ne rientro. Oggi adesso c'è un po' di freddo, ho aperto la finestra poco fa. Mi stavo fumando una sigaretta che è entrato una via fredda, infatti adesso ho chiuso, sennò va via tutto il caldo. Beh, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Riprendi Marco lì. Ok, a dopo là, se ci siete, adesso forse mangiamo pure. Cosa volevo dire? Ehi Antonè, ce l'ho più devitalizzato io che quest'anno, questo mese ho saltato il testosterone. Quindi devo andare dopo il 6, come passano le feste, me lo faccio prescrivere, così si vitalizza un po' di più. No, a parte che il testosterone fa bene alle ossa, fa bene ai muscoli, no, non è solo per la libido, no, per le parti basse. Quello ci deve essere, se no le ossa ne soffrono, i muscoli ne soffrono e tutto il resto. Sì, è il tipo di Viagra, fai prima, tanto che testosterone. Ti accompagno via c'è il tuo storico e fai come quello che ci aveva fatto fare l'operazione, e ci ha fatto mettere il palloncino sotto. Hanno sbagliato come, e rimaneva sempre a vetro, sempre dritto, roba di 25 cm, e il figlio gli fa, ma papà, cosa c'è di sotto? E lui diceva, nulla, nulla, figlio mio, non ti preoccupare, infatti aveva la faccia in terra. Dopo 6 mesi è andato a farsi operare, a farsi rottogliere. Dice, a me frega nulla, dice, a un certo punto posso uscire così, no? Che sembra questa storia che esce fuori dai pantaloni. Oh, ma quella roba brutta, io con la pompetta sotto per far rilassare il coso, ma per carità, è una cosa veramente contro natura. Io avrei detto, non ti funziona, tipo quando un anziano, pazienza, appendi l'uccello al chiodo, come si dice per i guantoni da box, pazienza, trovati un altro scopo nella vita. Sai cosa mi ricorda quella pompetta lì? Mi ricorda la pompetta del misuratore di pressione, no? Di quelli vecchi, non elettronici. C'è la pompetta per far gonfiare il braccio, no? Il bracciale, no? Che mandava in pressione. E poi piano piano c'era la valvolina, la svittavi e scendeva piano piano, quando sentivi il battito capivi qual era la pressione. Già hai capito, no? Io già ho capito di cosa stai parlando, di quella parola che c'ha dei medici. C'era anche io, ce l'ho buttato, avevo trovato io il computer, quello che si mette nel braccio da gonfiare, come dici tu, con la pompetta nera. Quel coso che si mette nelle orecchie, adesso mi ricordo come si chiama lo strumento, però io ce l'ho elettronico quello, cioè in pratica gli metti 2 batterie, che questo microfono si appoggia al petto, e dall'altra parte ci metti le cuffie e ti senti il battito del cuore, ti senti chiaro, chiaro, chiaro. Sì, una volta avevi anche lo stetoscopio per captare il battito della vena in quel punto. Adesso sì, elettronico anche noi, a parte che si sono rotti quelli con la pompetta, la gomma si, come dire, perdeva elasticità, si spaccava il tubicino, si spaccava la pompetta. abbiamo elettronico, sia quello per il braccio, solo che d'inverno ti devi alzare la manica della camicia, la manica del golfo, viene un po' male, e poi quello da polso, che è solo più comodo in inverno. Per l'estate, vabbè, mi affutto, uso quello da braccio. Uno è Omron, quello da polso, l'altro da braccio è Sanitas, preso alla Lidl, ma roba tedesca, li ho misurati, ho fatto una misurazione l'uno e l'altro, prima poi ho invertito i cosi, no, stando rilassato come dice il manuale, e ho visto che bene o male i risultati sono quelli, non differisce dall'uno all'altro, sono abbastanza coerenti. Invece prima ancora di quelli a pompetta con l'indicatore a lancetta c'erano quelli col mercurio, te li ricordi? Avevano una colonnina verticale di mercurio che saliva, no? Fino al valore indicato, insomma. Quelli li hanno messi fuori legge, quelli ce l'avano i medici, no, li hanno messi fuori legge per via del mercurio che contengono. Sì, me lo ricordo, erano rettangolari lunghi quasi un'ottantina di centimetri. Un'ottantina, no, di solito si apre in verticale, no, c'è una scatola rettangolare, cioè già bello grandetto, comunque, a trovarne, quelli si dice fossero i più precisi, ma io da bambino, quelli che avevamo in famiglia, ma sto parlando del 75-76, guarda che delinquente, sai cosa facevo? Attivo l'interruttore del, non l'interruttore, c'era una, un tappo del mercurio a vite, no? Io lo svitavo, facevo andare il mercurio a terra, oppure me lo mettevo sul palmo della mano, ci giocavo, un casino, anche perché è abbastanza velenosetto il mercurio, quindi se sono mezzo scemo è colpa di quello anche, avvelenamento al mercurio. E la pallina quando era a terra, no, andava a toccare un dito, non riuscivi a prenderla perché proprio sfuggiva alla, al polpastrello. Io sono cose che non sapevo, pericolose che non sapevo, però a mangiare non me lo sono mai mangiato, ci mancherebbe. Già lo credo, ci mancherebbe. Il mercurio era una cosa allucinante, non riuscivo mai a prenderlo, già me lo ricordo. C'era in parecchi posti il mercurio. Lo usavano anche per a parte il termometro, quello normale, dei filati, cioè che si infilava anche nel sedere. Ma c'era anche quel termometro che usavo in casa per sapere la temperatura dell'aria, capito? Perché uno ti tiri col colore rosso per esattezza. Eia. Solo che non ho mai capito che mercurio sia quello rosso, deve essere un derivato del mercurio, perché io il mercurio che toglievo dal misuratore di pressione era proprio metallo liquido, no? Quel colore argenteo. Invece con il mercurio è rossiccio, sarà qualche composto derivato del mercurio, non lo so. Però il più pericoloso era quello proprio liquido. Mi ricordo me lo mettevo sul palmo della mano così per giocare, poi mi ricagia tutta terra, si faceva mille palline microscopiche anche, più o meno grandi. E vabbè. Qui c'è un compagno delle medie, questo me lo ricordo chiaramente, ha presente i tubi in piombo per le tubature, no? Quel piombo morbido. O anche quei piombini da pesca, no? Però il piombo delle tubature era anche più morbido. Insomma, lui si pigliava dei pezzettini, dei rettangolini, dei quadratini di piombo e se li masticava. Gli piaceva sentire la malleabilità del piombo sotto i denti. So che anche quello è velenoso alla lunga, quello da avvelenamento da metalli pesanti, da piombo soprattutto, in questo caso. Non è molto salutare, certo, masticare il piombo. Io non è salutare, no, c'è lo grillo, il piombo si usava una volta per gli scarichi nelle palazzine, specialmente via di Trento. Erano tutti con il piombo, infatti mio padre prima di andarcene aveva buttato giù tutti e due i bagni. Siamo arrivati alla, tu immagina che il pavimento era tra cemento e il mattone che c'era, era minimo 40-50 centimetri, figurati. Adesso invece chiaro sai che sono più fini, sono, capito? Ma prima era un casino, per carità, tutto piombo era. mamma mi sta importunando. Saluta Antonello. Ciao Antonello, buon anno. Ciao lui, buon anno anche a te. Beh, sentite, va tutto bene, sì. Dai, già andata. Vabbè, tutto bene, non si è operata le gambe. Stiamo rimandando all'infinito. Perché io non ne voglio sapere di giocarmi quest'estate. Cioè, se si può fare. Ma poi ci passa un po' di tempo, perché deve ancora fare la lastra. La lastra la deve portare, sarebbe la radiografia, la deve portare al, come si dice, quello che si occupa delle, oh, mi sfugge sempre il nome, va in ora mala. Comunque c'è una crema al Lido che per i dolori, in pratica ti scalda all'interno, capito? L'ho usata io, siccome nel ginocchio c'erano ragioni, non riuscivo neanche a camminare. Io mi sono messo quella intorno al ginocchio, dopo un'oretta scaldava all'interno, no, della pelle, dopo un'oretta, dolori per niente, per tutto il mese, altro che usare antinfiammatorio era. E ce l'ha lì questo tipo di crema, te la faccio vedere. Basta che gliela fai passare dove c'è il dolore, in quel momento se vedi che migliora, utilizzi direttamente quella e va a far cuffia, c'è bisogno di fargli quell'operazione, no? Capito? C'era solo Lido quel tipo di crema, te la faccio vedere, la scatola, e te la faccio provare, se va bene, va bene, se no devi dire, per i dolori muscolari, capito? Perché c'ha quel problema come ce li ho io, alle ossa, eccetera, eccetera, capito? Tutto lì. No, qua non c'è crema che tenga. Lì l'osso è consumato, non viene più osso lì. Poi lì c'è l'attacco tra la gamba e il bacino, no? Lì ci vuole l'operazione da tutte e due le parti. Non è roba che passa con le creme e nemmeno con l'antidolorifico. L'ortopedico volevo dire, cioè, prima deve fare ancora la radiografia, poi prenotare già la visita all'ortopedico, magari gliela danno dopo mesi, quindi dovrà andare dal privato. Poi a fare l'operazione passeranno altri mesi, cioè poi dopo l'operazione ci vorrà la fisioterapia. Ehi, ma aspetta Antonio, arrivo subito. Ehi, fai, non c'è problema. È un continuo qua, mi chiama per fesserie, ma poi il minestrone lo volevo freddo io, perché me lo deve riscaldare, poi fiamma manetta, sul diavolo. Vabbè, cosa stavano dicendo? Lei sempre dice sì, mi opero, crede che va all'ospedale e si opera, e l'indomani esce, tutto fatto. Ui, saranno mesi, e ripeto, io quest'estate non me la brucio, mi dispiace, ma mi devo rifare. Poi magari arriva l'estate una giugana, poi col caldo me. E per esempio il mese scorso, cioè quest'estate scorsa, c'era sempre caldo, anche quando ero tornato erano minimo 30 gradi fissi per giorni e giorni e giorni. E io ci soffro già con 30 gradi, poi devo fare riposo assoluto, vabbè, pazienza. Vedremo cosa ne esce. Sì, vabbè, piano piano, le fanno le cose. Anche questa mattina gira, se va bene me ne vado al mare. Piglio un po' di sole anche per questa questione di questi dolori che ho. Almeno mi pagrisco un pochettino, metto a saltare nella spiaggia, metto la pizzetta tutto, mi dico fatta manco un cane tutto, come sto, sparisco tutto. Non è che scendo la chiave in casa sua, Giovanna, che ce l'ho io, se no va a lavorare e stanotte non rientra, aspettando. Ehi, ti sei abbassato di radio, dai un cazzotto al mic. E adesso 3, 4, 5, 6. Bene adesso. Aspetta che scendo un attimo a consegnare le chiave Giovanna, sto avvivendo. Aspetta Antonio, facciamo così, dai, io devo mangiare, ci sentiamo un'altra volta, ok, dai. Ciao Antonio, chiudiamo qua, dai, intanto sono quasi le 8, dai, ok? Saluta Giovanna, eccetera, ciao. Eia, va bene, ci sentiamo domani, ciao, stammi bene, buono, così ti vuole la cella con tutto, buon pranzo, quello che è.